Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio. Chissà che cosa ne direbbe James Tobin, premio Nobel per l'economia nel 1981, che la ipotizzò in tempi e contesti diversi un'imposta di questo tipo, e chissà cosa ci direbbero gli svedesi, gli unici che la introdussero nel 1984, ma che qualche anno dopo ci ripensarono e tornarono sui propri passi. Da domani l'Italia inizia a tassare le transazioni finanziarie. Diventerà infatti operativa la tanto discussa Tobin Tax, che colpirà le compravendite di azioni e strumenti finanziari. Dal 1 luglio l'operatività colpirà infatti gli strumenti derivati, da domani le azioni. Oggi Salva Danaio approfondisce tutti i dettagli applicativi in Italia, commentandoli con un gruppo di esperti, con una particolare attenzione alle valutazioni e agli adempimenti che spettano al risparmiatore. Allora cercheremo di capire cosa viene colpito e cosa no. Cosa determina l'imponibile su cui la tassa viene applicata? Perché questo è probabilmente l'aspetto più complicato. Chi e come viene escluso da questa novità? Cercheremo dunque di rispondere alle vostre domande, per cui potete già cominciare subito a prenotare i vostri interventi all'800240024, oppure scriveteci i vostri sms al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Potete andare anche sul nostro profilo Facebook salvadanaio-radio24, su Twitter @salvadanaio24. Chi è con noi questa mattina? Gianni Lupotto, consulente finanziario indipendente, titolare dello studio Lupotto & Partners. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. E poi naturalmente una società di intermediazione, perché dobbiamo anche capire l'operatività per chi magari fa degli investimenti per conto proprio e utilizza anche delle piattaforme, come queste società si sono organizzate ed attrezzate per recepire la normativa, come assisteranno soprattutto anche tutti i piccoli investitori che utilizzano queste piattaforme. Mario Fabbri, amministratore delegato di Directassim, presidente, sì, stamattina sono ubriaca, dottor Fabbri, buongiorno. Buongiorno. Forse anch'io con la Tobin Tax sono un po' in difficoltà. E poi ci collegheremo anche con il responsabile di un sito che appunto è stato attrezzato e costruito proprio per far qualche calcolo preventivo di applicazione della Tobin Tax, per cui questo sito si chiama proprio www.tobintax.it. ci collegheremo appunto più tardi con il responsabile Pietro Di Lorenzo. Vi ho già dato naturalmente tutte le indicazioni per intervenire in diretta questa mattina e adesso andiamo a vedere intanto la borsa. La borsa è contrastata ed è proprio Milano la piazza negativa d'Europa, le altre invece riescono a conservare, a mantenere il segno più. Milano sta perdendo lo 0,36% sul FTSE MIB, era però partita in rialzo e cercava di mantenere e consolidare il recupero fatto ieri, la giornata che ha seguito invece la giornata precedente, come ricorderete, appunto di calo molto forte su Piazza Affari, scaturito, determinato, secondo le analisi che abbiamo fatto, anche dalla delusione per il risultato elettorale, che consegna adesso una certa instabilità appunto al paese. In ogni caso adesso il mercato appare più tranquillo, comunque il segno meno c'è. Più 4% per Prismian, miglior titolo in questo momento per Piazza Affari. Salvatore Ferragamo più 3, Buzzi Unicem più 1,74, Terna più 1,47. Mediobanca peggior titolo invece, esattamente come ieri, che pur ha avuto una giornata piuttosto negativa. Piazzetta Cuccia anche oggi perde il 2,86%, Popolare dell'Emilia Romagna meno 2,52, Fiat meno 1,75. Le altre piazze, dicevo, positive: Parigi più 0,3, Francoforte più 0,68, Londra più 0,21%. Stamattina è andata molto bene Tokyo, è andata bene anche ieri sera Wall Street, e in ogni caso appunto Milano rimane ancora un po' sotto osservazione per le appunto condizioni politiche e chiaramente le trattative adesso anche per formare il nuovo governo. Volevo ricordare che oggi dagli Stati Uniti arrivano alcuni dati importanti, in particolar modo il mercato attende il dato sul prodotto interno lordo del quarto trimestre, abbiamo la seconda stima preliminare. Per la borsa è tutto, il tema di oggi arriva la Tobin Tax all'italiana. Sono tanti gli interventi normativi che nell'ultimo anno hanno rivoluzionato la tassazione del risparmio. il ritocco dell'imposta sui conti correnti, l'inasprimento del superbollo applicato ai prodotti finanziari, l'introduzione di IVAFIE e IVIE per le attività finanziarie e gli immobili detenuti all'estero. A questa già ricca compagnia si aggiungerà, a partire dal 1 marzo, la versione italiana della tanto discussa Tobin Tax, che va a colpire le transazioni finanziarie. Nel mirino ci sono gli acquirenti di azioni di società italiane con capitalizzazione superiore a 500 milioni di euro. A conti fatti, sono quindi soggetti alla tassa 76 dei circa 300 titoli quotati sui mercati italiani. Non conta la residenza dell'azionista. L'aliquota per tutto il 2013 sarà dello 0,12%, ma dal prossimo anno si stabilizzerà allo 0,10. Pagano soprattutto i cassettisti, gli investitori a lungo termine, perché le operazioni aperte e chiuse nel corso della stessa seduta non vengono considerate. Escluse le obbligazioni, i titoli di Stato, le azioni estere, le materie prime, le polizze, la previdenza. Si salva la finanza etica, mentre non la spuntano le banche popolari e di credito cooperativo. I più critici tra gli addetti ai lavori prevedono un brusco calo delle operazioni su borsa italiana, una sorta di fuga degli azionisti che non permetterebbe nemmeno allo Stato di raggiungere i suoi obiettivi di gettito. Per molti il vero punto debole è la mancata armonizzazione a livello europeo. La Germania ha rimandato di qualche anno l'applicazione di un'imposta analoga. In Francia è stata appena adottata, ma qualcuno sta già pensando di cambiarla. Sembra invece funzionare un po' meglio la stamp duty britannica. Chissà cosa ne direbbe James Tobin, premio Nobel per l'economia nel 1981, che ipotizzò, in tempi e contesti diversi, un'imposta di questo tipo. La Svezia, unica ad introdurla nel 1984, decise di tornare sui suoi passi nel 1991. E cosa direbbe Tobin, che è quella che viene applicata in questo momento nel contesto europeo è qualcosa di completamente diverso rispetto all'ipotesi che aveva fatto lui, perché la misura ipotizzata appunto dal premio Nobel per l'economia del 1981 voleva proprio combattere la speculazione finanziaria, arginare la volatilità sul mercato dei cambi, delle valute e così intercettare in qualche maniera delle risorse per combattere la povertà nel mondo. Oggi questo aspetto così nobile non c'è, almeno appunto nella nuova formulazione europea, e in ogni caso vediamo un po' adesso che cosa succede a chi investe in borsa da domani. E peraltro, perché noi ne parliamo? Perché non vorrei che succedesse come è successo con la mini patrimoniale sui prodotti di risparmio e di investimento, della quale abbiamo tanto parlato nei mesi passati, ma era passata un po' in secondo piano rispetto ad altri temi a cui gli ascoltatori o comunque i consumatori, i cittadini italiani, sui quali hanno voluto soffermare di più l'attenzione, tipo tutta la battaglia sull'IMU e quant'altro. La mini patrimoniale, insomma, della mini patrimoniale in molti se ne sono accorti solamente in gennaio, quando sono arrivati gli estratti conto appunto dei portafogli investiti. Detto questo, Mario Fabbri, amministratore delegato di Directasim, mi interessa capire anche, ecco, le vostre aziende, il vostro è il primo broker telematico in Italia, uno dei primi al mondo, come vi siete attrezzati appunto per assistere anche la vostra clientela? Intanto le chiedo pure se vi stanno ponendo delle domande specifiche sull'operatività appunto della Tobin Tax a partire da domani, e se ci sono anche dei timori da parte vostra, crolleranno le compravendite sulle azioni, Fabbri? Ma io sì, diciamo, delle richieste ci sono, tra l'altro sono richieste banali, che sono quali sono i titoli soggetti a Tobin e quali no. Devo dire che purtroppo nel dispositivo le entità governative danno i titoli esclusi, così nessuno non si sbagliano, per cui non è banalissimo o del tutto sicuro, ma abbiamo provato a fare una lista che dovrebbe essere corretta, poi ci sono anche altri riscontri. Questo è l'interesse attuale. Dal nostro punto di vista è chiaro che siamo in attesa di capire cosa succede, ma l'unico modo è di vederlo, perché in realtà ci sono elementi che fanno pensare a una riduzione dei volumi e quindi delle commissioni, e degli elementi che invece vanno in senso opposto, per cui è solo nei fatti che si può capire da che parte si finisce. Gli elementi che vanno a ridurre i volumi sono ovviamente il fatto che adesso si paga una cosa che prima era gratis, E invece dall'altra parte c'è il fatto che il trader è invogliato a chiudere, si è aperta una posizione a chiuderla in giornata per non pagare. Poi non solo, ce n'è un altro che elemento che ancora di cui non si parla molto, ma che potrebbe fare una grossa differenza, ed è l'introduzione di una penalizzazione per le transazioni fatte veloci, fatte da macchinette. Ecco, in questo caso potrebbe cambiare abbastanza il modo di comportarsi del mercato, e quindi si potrebbero forse riaprire degli spazi agli operatori manuali che erano stati finora penalizzati fortemente. Ora, tutte queste cose fanno pensare che ci sarà, secondo me, dove si farà una stima, ci sarà una riduzione, ma non drammatica. Spero di non essere contraddetto. No, tra l'altro bisognerà anche vedere che tipo di entrate questa Tobin determinerà per le casse dello Stato, perché c'è un obiettivo anche piuttosto ambizioso, che è di circa 1 miliardo di euro l'anno. In realtà poi la Francia, appunto, che era già partita, ha constatato che il gettito fiscale per il paese era estremamente al di sotto delle aspettative, un po' come è anche successo per la Svezia, appunto, che l'ha applicata tanti anni fa. E in tutto questo non ci mettiamo anche che abbiamo tra poco un nuovo governo, un nuovo Parlamento e magari, insomma, un nuovo esecutivo che penserà anche di ribaltare di nuovo questa normativa, per cui ci sono ancora tante incognite, Lupotto, no? Alle quali dobbiamo guardare. Poi dopo con lei spiegheremo naturalmente l'operatività, facciamo una facsimile, come dire, stamattina, una simulazione di investimento per capire che cosa succederà a chi magari domattina vuole investire, che ne so, 5.000 euro in azioni Fiat piuttosto che Banca Intesa, tanto per fare due esempi, per carità del cielo, non voglio fare degli esempi concreti, li faremo appunto nel corso della trasmissione. Lupotto. Sì, indubbiamente l'introduzione di questa tassa non aiuta, diciamo, alla chiarezza sui mercati, perché è una tassa, come si ricordava prima, di tipo asimmetrico, che colpisce solamente alcuni titoli azionari, peraltro italiani, peraltro ad alta capitalizzazione. Quindi, al di là dell'entità, che come vedremo può essere anche abbastanza modesta in alcuni casi e per certi tipi di operatività, certamente allontana da un certo tipo di investimento alcune categorie di risparmiatori. Per quale motivo? Perché l'impatto mediatico dell'introduzione di una tassa è sempre piuttosto importante, e comunque chi desidera effettuare delle operazioni di trading veloce, non intraday, perché intraday sappiamo che sono esenti. Ma diciamo, esistono moltissimi risparmiatori che acquistano azioni per rivendere dopo qualche giorno. Ecco che queste azioni soggette a tassa verranno probabilmente accantonate e ci si rivolgerà ad altre azioni, magari a minore capitalizzazione, quindi con maggiori rischi di volatilità, o magari a titoli stranieri su paesi che ancora non hanno introdotto questo tipo di imposta. Facciamo subito qualche esempio, Lupotto, così aiutiamo i nostri ascoltatori a capire. Poi naturalmente ci sono già tantissime domande e ogni ascoltatore che ci scrive, che ci telefona, ci fa l'esempio di uno specifico prodotto di investimento per capire lì che tipo di effetto avrà l'introduzione appunto della Tobin versione italiana. Allora, immaginando appunto domani mattina, visto che è il 1 marzo, ho 5.000 euro disponibili e voglio fare una bella operazione di investimento, anche perché ci sono molti titoli che peraltro hanno avuto una riduzione di prezzo notevole negli ultimi giorni a causa di questa impasse politica, insomma, che in molti hanno... a cui molti hanno attribuito appunto il calo della borsa, cioè non è che in molti hanno attribuito, è successo questo nelle ultime giornate, ammettendo appunto di voler fare un bel investimento domani mattina in un titolo di Piazza Affari. Ne prendo uno a caso, prendo Saipem, che adesso perde 1,5 punti. Mi spiega la Tobin appunto come mi viene applicata in questo caso? Sì, prendiamo un investimento per esempio di 10.000 euro. Se io voglio investire su Saipem, andrò in borsa e acquisterò un controvalore di 10.000 euro di azioni. Sull'acquisto, a carico quindi dell'acquirente, perché va ricordato che la tassa grava su chi acquista, mi verrà applicata un'imposta dello 0,12%, che significa 12 euro per ogni 10.000, e quindi mi verranno applicate queste imposte in aggiunta alle normali commissioni di negoziazione. Questo se l'acquisto di Saipem lo mantengo almeno fino a fine giornata e non effettuo una vendita nel corso della giornata, perché se io la rivendessi con un profitto o con una perdita non importa nel corso della stessa giornata borsistica, questa tassa non verrebbe applicata. Quando mi viene appunto detratta questa cifra dal portafoglio investito? Sì, i vari intermediari si stanno organizzando e quindi stanno comunicando le modalità con le quali verrà applicata la tassa. Alcuni la applicheranno su base quindicinale, altri su base settimanale. Comincerà ad essere applicata effettivamente, adesso ho fatto un po' una prospezione fra i vari intermediari, attorno alla metà di marzo, addebitata. Quindi praticamente l'imposta è calcolata in termini percentuali sul controvalore dell'operazione iniziale, 10.000 euro, 0,12%. 0,12% e quindi 12 euro su 10.000. Ecco, quindi se domani il titolo in questione o aumenta di valore del 50% o crolla del 50%, lo 0,12% va applicato al controvalore dell'operazione effettuata inizialmente. Esattamente, è il controvalore della transazione. Se sono state effettuate più transazioni nel corso della giornata, quindi ho acquistato a lotti successivi e poi magari ho anche venduto parzialmente, viene applicato chiaramente al totale degli acquisti meno il totale delle vendite della giornata. Quindi ci sarà un saldo positivo al quale viene applicato questo 0,12%. Benissimo, allora, questo è quello che accade peraltro dal 1 marzo. Ricordatevi che però questa tassa è un po' più alta per chi opera sui cosiddetti mercati non regolamentati. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, entra in vigore domani, 1 marzo, venerdì, la Tobin Tax, l'imposta sulle transazioni finanziarie, ispirata ai principi europei di contrasto alla speculazione, però nella versione italiana ha al momento un campo di applicazione abbastanza limitato, perché si parte intanto con le azioni di società ad elevatissima capitalizzazione, poi dal 1 luglio si parte con l'applicazione di questa aliquota sulle compravendite appunto di derivati. Stiamo cercando questa mattina di capire quanto inciderà anche nelle abitudini di investimento delle famiglie italiane, appunto degli italiani, come si calcola e quanto incide anche nell'attività appunto dei vari operatori di mercato. Con noi questa mattina Gianni Lupotto, consulente finanziario indipendente, Mario Fabbri, amministratore delegato di Directasim, e abbiamo intanto raggiunto anche Pietro Di Lorenzo, responsabile del sito www.tobintax.it. Di Lorenzo, buongiorno e benvenuto anche a lei. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. E grazie, naturalmente. Adesso ci spiegherà anche che tipo di informazioni possiamo trovare su questo sito, anche attraverso degli esempi pratici. Però prima delle domande degli ascoltatori. Ce ne sono veramente tanti che ci stanno scrivendo. Ci fa piacere, adesso cercherò di leggere tutto quanto. Comunque cominciamo con Sergio da Firenze, su un aspetto che probabilmente abbiamo già toccato nella prima parte, Sergio, ma lo ribadiamo se necessario. Buongiorno. Sergio? Sì. Eccoci. Sì, buongiorno. Ci dica. Siccome io faccio trading online intraday di solito giornaliero, e volevo sapere se compro un'azione la mattina alle 9 o alle 10, se la rivendo in after hour, la sera alle 7 o alle 8, sono esente dal pagamento della tassa oppure no? Oppure coincide anche proprio magari la giornata di borsa, Sergio. Comunque anche questa è una domanda interessante. Mario Fabbri, vengo da lei perché probabilmente questa è anche una platea di riferimento importante per l'operatività della vostra SIM. Abbiamo già detto che le operazioni cosiddette in gergo finanziario intraday non vengono colpite dalla tassazione. Sì, esattamente, perché poi l'acquisto e la vendita si annullano. Tra l'altro la consegna viene 3 giorni dopo e quindi tutto quello che avviene durante l'orario di negoziazione o nell'after hour fa tutto un monte. In questo caso non c'è nulla da consegnare e da ritirare. L'after hour, ecco, tanto per spiegarlo agli ascoltatori che non la conoscono, insomma è quella sessione che, di operatività in borsa che è di qualche ora appunto successiva alla chiusura appunto della seduta ordinaria. Andiamo adesso anche ad Alessandra da Biella. Alessandra, buongiorno. Buongiorno, vi ringrazio di avermi chiamata, ma in parte mi avete già risposto, perché l'azionario mi interessava relativamente, mi interessava l'obbligazionario, ma l'obbligazionario mi pare fino a luglio, ecco. Aspetti lì, allora Gianni Lupotto, da domani siamo completamente sicuri che la Tobin Tax viene applicata appunto alla compravendita su azioni di una certa anche tipologia, poi magari ritorniamo anche su questo aspetto. Le obbligazioni? Le obbligazioni sono esenti sia adesso sia dal primo luglio, in quanto la seconda fase di introduzione della Tobin Tax dal primo luglio colpirà i prodotti derivati, futures, warrant, opzioni, CFD, aventi come sottostante unicamente le azioni di cui sopra. E quindi colpisce sostanzialmente quella categoria di azioni. Le obbligazioni di qualunque tipo, sia corporate sia titoli di Stato, sono esenti. Diciamo che sono esenti al momento, perché da quello che capisco la Commissione europea, che a metà febbraio ha ufficializzato una proposta di direttiva con l'obiettivo di completare l'iter di approvazione appunto entro un anno, vorrebbe per la verità ampliare il raggio d'azione anche alle obbligazioni governative, Lupotto, quindi non è che siamo proprio sicuri del fatto che, ecco, i titoli Stato non verranno nuovamente tassati. Ulteriormente noi sappiamo che al lavoro a Città del Fisco non c'è limite, quindi diciamo diamo delle indicazioni che valgono per il momento. E infatti nell'ultimo anno è stato veramente vorace sui prodotti di investimento delle famiglie italiane, al punto anche che li hanno anche notevolmente confusi, perché adesso non solo il campo della tassazione si è ampliato, ma si è anche complicato, direi, ma su questo insomma ci siamo andati anche tante altre volte. 800 24 00 24, il numero verde appunto per le vostre domande. Peraltro prima avevo intercettato una domanda interessante, ecco, di un ascoltatore. Visto Lupotto, rimango ancora un attimo con lei. L'ascoltatore prima ha preso ad esempio quello che ci ha scritto, l'esempio che abbiamo fatto prima su un investimento tipo che potremmo fare domani mattina, 10.000 euro investiti sul titolo Saipem, no? Quindi sull'acquisto di domani mattina l'acquirente paga questo 0,12% sui 10.000 euro che verranno appunto detratti naturalmente dall'intermediario finanziario di riferimento che fa il sostituto d'imposta. Se nel giro di 20 giorni questi 10.000 euro vengono disinvestiti, si riapplica di nuovo la tassa? La risposta è no, perché la tassa si applica solamente nel momento dell'acquisto. Ne approfitto per dire che questa tassa è dovuta anche se io utilizzo degli intermediari esteri che non agiscono da sostituto d'imposta, quindi in questo caso sarà cura del risparmiatore versare la tassa secondo i criteri che sono specificati dalla legge, quindi l'utilizzo di intermediari esteri non esenta dal pagamento della tassa. Ecco, infatti, quindi non cerchiamo di come dire, magari utilizzare, di intercettare delle scappatoie possibili per non versarla, perché non ce la possiamo fare. Pietro Di Lorenzo, buongiorno. Intanto, allora, quali sono le informazioni che chi va sul vostro sito cerca? Intanto avete già comunque come dire, individuato quelle che possono essere un po' le considerazioni più diffuse da parte degli investitori, che adesso sono probabilmente anche un pochino preoccupati, no, dall'arrivo di questa nuova tassazione. Assolutamente, questo sito nasce proprio per cercare di valutare ex ante quali saranno gli impatti della Tobin Tax sulla propria operatività. Come lei diceva correttamente, c'è un po' di smarrimento perché è una norma che va in vigore sostanzialmente solo in Italia, e quindi solo la Francia ci ha preceduto a agosto, però insomma affrontiamo un campo nuovo soprattutto per quanto riguarda i derivati, che sarà un argomento che poi andrà più, come dire, sarà più nel vivo dal primo luglio. In ogni caso le preoccupazioni sono diverse. La domanda che più frequentemente ci viene rivolta e sui titoli che già si detengono in portafoglio, se verrà applicata la Tobin Tax, la risposta è no, perché sulle azioni si applica solo in fase di acquisto e non di vendita. Quindi si applicherà solo qualora ci sarà un'operazione di short selling in portafoglio già pregresse, e quando uno si andrà a ricoprire eventualmente la pagherà. Ci traduce in termini semplici per i nostri ascoltatori questo concetto che ci ha indicato adesso? Sì, lo short selling sarebbe la vendita allo scoperto delle azioni, quindi vendere senza detenere materialmente il titolo, avere la disponibilità del titolo, che sono un po' anche quelle operazioni che ha limitato la Consob negli ultimi giorni per frenare un po' su alcuni titoli bancari. Esattamente, infatti. Allora, adesso andiamo alle altre domande degli ascoltatori. Volevo però ritornare su un aspetto che avevo sollevato prima della nostra prima pausa. Allora, Lupotto, ritorno per un attimo con lei. Dal 1 marzo, da domani, la aliquota, la percentuale della Tobin è dello 0,12% sul controvalore dell'operazione che si vuole effettuare. Questa aliquota è però più alta se l'operazione di compravendita si fa sui cosiddetti mercati non regolamentati, è dello 0,22%. Quali sono questi mercati? Beh, i mercati non regolamentati sono quelli che vengono chiamati anche over the counter o OTC, e sono tutti quelli diversi dalle borse in cui si forma un prezzo in modo ufficiale. Quindi, però in pratica per i risparmiatori italiani gli acquisti di azioni soggette alla Tobin tax vengono fatti praticamente esclusivamente su borsa italiana o comunque su altre borse, quindi è una casistica che riguarda poco il singolo risparmiatore, potrebbe riguardare coloro che acquistano grossi volumi di azioni, e in questo caso per i grossi volumi di azioni a volte si ricorre a delle transazioni per l'appunto OTC utilizzando degli intermediari fuori borsa. In questo caso le transazioni sono soggette ad una tassa più elevata. C'è un altro aspetto molto importante da segnalare immediatamente, anche se poi riguarderà gli investitori a partire dal 1 luglio, cioè Mario Fabbri, ritorno con lei, amministratore delegato di Directasim. Da domani, per chi fa compravendita sui titoli azionari, paga appunto questo 0,12% sul controvalore dell'operazione, e la paga solo l'acquirente, questa aliquota la versa solo l'acquirente, quindi il cliente di Directa, anche se poi il versamento lo fa appunto l'intermediario. Dal 1 luglio invece, per le operazioni su derivati, la versano entrambe le parti. Sì, che cosa vuol dire entrambe le parti? Ecco. Sì, non stiamo parlando mai dell'intermediario. Vuol dire che sui derivati, sia per gli acquisti sia per le vendite, c'è un canone, un pedaggio, se vogliamo, che è dovuto secondo fasce della dimensione del sottostante del derivato, e che tra l'altro è abbastanza modesto relativamente alle operazioni su mercati regolamentati, e più elevato se fatto nell'OTC. Allora, tra l'altro, quando noi parliamo di questi derivati, che negli ultimi anni è un termine che abbiamo utilizzato anche tante volte, perché a questi derivati abbiamo anche attribuito la grande crisi finanziaria che ci ha travolto dal 2007-2008 in avanti, se dovessimo fare una lista della spesa, Gianni Lupotto, per far capire bene ai nostri ascoltatori di quali entità misteriose stiamo parlando, per la verità poi scopriamo che sono entità non tanto misteriose, perché molti di questi prodotti di investimento le famiglie italiane ce l'hanno in portafoglio, quindi per esempio certificati, certificates. Assolutamente, i certificati sono, diciamo, lo strumento finanziario più comune che si potrebbe trovare nei portafogli di investimento, e quindi l'acquisto di certificati o anche la vendita in quel caso, perché come abbiamo appena visto si tratta di un'applicazione bilaterale, sarebbe soggetta a questa imposta. Altri strumenti finanziari sono le opzioni e anche uno strumento che i trader hanno utilizzato e stanno utilizzando sempre più frequentemente, che sono i cosiddetti CFD, cioè i contratti per differenza. Esatto, che sono degli strumenti che servono per fare del trading piuttosto veloce, che fino al 1 luglio sono esenti, ma successivamente verranno tassati anch'essi. Ecco, c'è un aspetto importante che stanno sottolineando gli ascoltatori, forse non siamo stati sufficientemente chiari, adesso allora lo ribadiamo. Gianni Lupotto, torno ancora da lei per un attimo, ci sono molti che ci scrivono, ma cioè che cosa vuol dire che dal 1 luglio mi viene applicata questa tassa anche se io ho un portafoglio investito in 3 titoli azionari di 3 società appunto quotate a Piazza Affari, per esempio da 1 anno, 2 anni, 10 anni? No, chiariamolo ancora una volta, sul portafoglio investito non viene applicata alcuna tassa, già c'è già la mini patrimoniale, ci sono tutte le altre, ecco. Con tutte le altre. Questa tassa viene applicata nel caso delle azioni solamente in caso di acquisto, e quindi non si applicherà neanche se noi questo portafoglio che abbiamo lo disinvestiamo, se invece sui prodotti derivati si applicherà sia sull'acquisto che sulle vendite. Okay? Però non esiste una tassazione per la detenzione di azioni ulteriore a quelle che già ci sono. Pietro Di Lorenzo, www.tobintax.it. Vorrei fare così una visualizzazione a beneficio dei nostri ascoltatori che non possono in questo momento collegarsi con il suo sito, la voglio fare io per loro appunto con il suo aiuto. Vedo tre semafori intanto nella vostra home page. La prima domanda che il sito mi fa è: trova le azioni italiane soggette a Tobin Tax e quelle esenti, per cui a voi avete messo praticamente tutta la lista delle società quotate a Piazza Affari, e se io do un nome praticamente il semaforo, se non capisco male, mi indica se questa società è come dire l'investimento in questa società. Esatto. La normativa prevede un'esenzione per i titoli che hanno capitalizzazione inferiore ai 500 milioni di euro. In realtà c'è una piccola variazione, nel senso che anche i titoli che non hanno sede legale in Italia, come Tenaris piuttosto che STM, non saranno soggetti all'imposta. Quindi da qui partiamo e capiamo se il titolo di nostro interesse. Quindi pur avendo quella famosa capitalizzazione superiore a quella soglia appunto che la legge indica, queste due società, l'operatività su queste società non è passibile appunto di applicazione della Tobin. Esattamente, perché hanno sede legale in un paese diverso dall'Italia. Ho capito. Questa è già un'altra cosa interessante. Poi praticamente seconda opzione che il sito mi dà: calcola l'impatto della Tobin Tax sulla singola transazione finanziaria. Voi qua indicate tutta una lista di strumenti tradati, li chiamate voi. Sì, e quindi vedrete che saranno esenti una serie di strumenti finanziari, quale le obbligazioni, piuttosto che il Forex, piuttosto che le commodities, sostanzialmente solo azioni italiane e indici derivati su indici o azioni italiane saranno soggette queste dal 1 luglio. Terzo semaforo che vedo è: stima il costo settimanale, mensile ed annuale della Tobin Tax. Si prevede comunque con una persona piuttosto attiva. Sì, ma anche no, nel senso che se lei fa un'operazione al giorno con i 10.000 di cui parlavamo prima, l'impatto che sembra irrilevante se uno pensa allo 0,12, in realtà le costa 3.168 euro di Tobin Tax, quindi è una stima di quanto verrà a costare a fine anno un certo stile di trading. Quindi anche senza essere un trader di quelli, come dire, esageratissimi, no? In realtà basta fare un'operazione al giorno, perché magari c'è anche chi si mette lì la mattina e sulla base anche dell'andamento del mercato sceglie di fare degli investimenti, quindi probabilmente forse in questi termini qualche volta uno dice, molti esperti hanno detto appunto nelle ultime settimane si teme un rallentamento, un ridimensionamento del numero delle operazioni. Effettivamente se ci fosse stato uno anche attivo nella media, magari un po' ci ripensa. Ritengo che il rischio sia molto forte, soprattutto sulle azioni italiane, nel senso che l'imposta è gravosa, soprattutto per chi fa swing trading, quindi non un'operatività intraday che è esentata, ma la classica operatività con cui uno tende a tenere la posizione una settimana, 2-3 giorni, 2-3 settimane, quella è un'operatività che ritengo vada modificata proprio in virtù di questa nuova imposta che sarà molto invasiva qualora sia questo stile di trading. Mario Fabbri, Directasim, volevo tornare un attimo da lei, diciamo per quello che succederà da domani in avanti. Abbiamo già sentito che gli operatori non sono terribilmente preoccupati, sono ragionevolmente preoccupati, lo siete di più per quello che potrà accadere invece sulla vostra operatività a partire dal 1 luglio, quando appunto il raggio d'azione della Tobin si amplierà agli strumenti derivati? Ma sugli strumenti derivati noi prevediamo in effetti un calo netto, perché lì semplicemente viene applicata ad ogni transazione, sia in acquisto sia in vendita, quindi non c'è né l'effetto del fatto che io magari aumento qualche operazione che potrebbe compensare per poter chiudere l'operazione e non pagare la Tobin. Devo dire che le operazioni sugli strumenti derivati noi facciamo direttamente soltanto i future di strumenti derivati, spesano di meno nel nostro conto economico rispetto alle operazioni sull'azionario italiano, quindi questo magari un pochino ci tranquillizza, ma penso che sia più o meno la stessa cosa anche per la gran parte degli altri intermediari che hanno un po' il nostro profilo. Tra l'altro ci sono anche alcune considerazioni che facevano alcuni operatori che ho avuto modo di sentire al Forex, all'incontro con gli operatori finanziari che si tiene ogni anno quando questi appunto incontrano il governatore della Banca d'Italia. Qualcuno mi ha detto forse ci può essere anche un effetto positivo da questa Tobin, e chiedo magari anche a voi una riflessione su questo. Magari molti risparmiatori tenderanno a fare meno operazioni sulle società italiane che hanno questa capitalizzazione molto importante, superiore ai 500 milioni di euro, per andare invece ad investire sulle piccole e medie aziende quotate in borsa italiana che non sempre hanno grande fortuna. Che ne pensa Fabbri? Ma questo sì, è un aspetto che può anche essere compensativo. Tornando ai derivati, diciamo questo può essere ancora più importante, perché quello che dico io poi... La Tobin si applica sui titoli italiani, cioè sul FIB, mini FIB, è così semplice. Poi mi dispiace ovviamente per la borsa italiana, fare lo stesso trading sull'Eurex o sul Chicago Mercantile. Infatti in borsa italiana sono un po' preoccupati naturalmente, perché peraltro sono anche molto efficienti, come appunto la borsa italiana è ritenuta un modello di efficienza anche in tutta Europa pur essendo piccola, e loro chiaramente temono anche un po' di perdere questo primato, questo vantaggio un pochino competitivo no, sul resto delle piazze europee. Volevo 3 minuti di tempo prima di salutarci, abbiamo 2 ascoltatori pronti ad intervenire. Roberto da Torino, buongiorno. Pronto, buongiorno. Ci dica. La mia domanda è questa, alle altre avete già risposto esaurientemente, quindi l'ultima che mi rimane è quella sui fondi azionari e misti. Su questi come si applica la tassa? Grazie, grazie Roberto. Penso che anche quella di Augusto da Ferrara fosse una domanda simile. Augusto? Sì, esattamente simile. Sì, volevo chiedere appunto se vanno a incidere anche sui fondi questa tassa. Grazie. Poi chiedevo una precisazione, se ho letto, per le azioni acquistate all'estero, trattate comunque sui mercati esteri, si paga la Tobin Tax. Grazie Augusto. Allora Lupotto, chiedo a lei un'ultima consulenza. Allora, ammettendo di avere un fondo comune di investimento che punta sulle società italiane, un fondo azionario Italia, ce ne sono tanti, quasi tutte le società di gestione, tutte le SGR ne hanno appunto in casa, su questi strumenti come funziona l'applicazione della Tobin? Funziona così, che va detto che anzitutto chi acquista quote di fondi è esente dal pagamento di questa imposta, di questa tassa, mentre invece il fondo medesimo che al suo interno... Il gestore che tutti i giorni compra il azioni nuove. Che tutti i giorni compra e vende, se compra azioni italiane con capitalizzazione superiore a 500 milioni, è soggetto anche lui alla medesima tassa. Ma c'è il pericolo che magari possa ampliarsi così la rosa delle commissioni di intermediazione su questi fondi a carico del risparmiatore? Assolutamente, questo avrà un impatto sul valore della quota e quindi queste tasse vengono scaricate sul valore della quota del fondo, che quindi avrà una performance relativamente inferiore. Certo. Questo vale per tutti i fondi di investimento tranne che per i fondi pensione e così per i cosiddetti fondi etici. Senta, mi sono persa l'ultima domanda che aveva fatto Augusto sulle azioni italiane negoziate su mercati esteri. L'imposta colpisce non la piazza di transazione, ma colpisce lo strumento. Quindi qualunque sia la piazza di transazione di regolamento, diciamo, dell'operazione, l'imposta è dovuta. Anche, per esempio, faccio un caso, un'azione che fosse quotata su più di un mercato, Enel per esempio, Eni, queste multinazionali sono quotate su più di un mercato anche straniero, sono soggette nella stessa misura alla tassa. Benissimo, noi abbiamo terminato. Comunque, per chi volesse saperne qualcosa di più, non abbiamo detto tutto, vi ricordo che il Sole 24 Ore ha realizzato un inserto speciale che spiega tutti i dettagli applicativi ed operativi della Tobin. Da domani lo trovate in vendita, ahimè, sul sito internet del Sole 24 Ore. Però è molto completo e molto utile. Grazie a Gianni Lupotto, Mario Fabbri, Pietro Di Lorenzo, Salvadanaio. Torna domani. A tutti buona giornata.